Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Amore gay tra i carri armati. Sono felice di poter diffondere tramite Radio Progetto Gay alcune pagine di diario di un soldato italiano che nel 1940 faceva parte dell'Armata Italiana di Libia. In questo diario, attraverso minimi cenni, si intravede una storia d'amore gay nata sul campo di battaglia. Ringrazio sentitamente Massimo che mi ha inviato questo scritto, sopravvissuto alla guerra. Si tratta di 5 pagine in tutto e ha aggiunto altre informazioni in suo possesso. Per rendere comprensibili i fatti, ormai a distanza di più di 70 anni, bisogna fare qualche premessa storica in modo da non interrompere la lettura del diario per aggiungere elementi di spiegazione dei riferimenti. Il 10 giugno 1940 l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale a fianco della Germania contro la Francia e l'Inghilterra. Mussolini pronunciò un famoso discorso al balcone di Palazzo Venezia e il discorso si concludeva con questa esortazione: popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Il generale Berti era il comandante della 10ª Armata Italiana in Libia. Al momento della dichiarazione italiana di guerra il 10 giugno del 40, Italo Balbo era governatore generale di Libia e comandante in capo dell'Africa settentrionale italiana e divenne responsabile della pianificazione dell'invasione dell'Egitto. Quando l'Italia entrò in guerra, Rodolfo Graziani era capo di Stato Maggiore del Regio Esercito. Dopo la morte di Balbo, perito in un incidente per fuoco amico, di cui si parla nel nostro documento, il 28 giugno del 40, Graziani prese il suo posto come comandante in capo dell'Africa settentrionale italiana e come governatore generale della Libia. In Italia, nel 1940, erano diffuse le scatolette di sardine a rigoni e il termine a rigoni era divenuto sinonimo di scatola di sardine. Col termine a rigoni i soldati italiani in Libia indicavano spesso i carri armati leggeri L3 che avevano in dotazione, che erano considerati poco più che scatole di sardine. Le date indicate nel diario si riferiscono all'anno 1940. Passiamo dunque alla lettura del diario. 10 giugno, ore 21. Oggi pomeriggio ho provato l'orgoglio di essere italiano. Abbiamo ascoltato alla radio il discorso infiammato del Duce. Finalmente siamo in guerra. Viva l'Italia. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio e il tuo valore. Abbiamo quasi 250.000 uomini in Libia e possiamo spazzare via gli inglesi dall'Egitto. Michele, qualche volta non lo capisco. Questo deve essere un momento di orgoglio. Finalmente potremo dimostrare quanto valiamo. Ma è come se lui fosse spaventato da quello che ci aspetta. Dice che sarà dura, che qui in Africa siamo più forti degli inglesi, ma che arrivare ad Alessandria non sarà facile e che lo vedremo sul campo, che gli inglesi la guerra la sanno fare. 11 giugno. Il generale Berti la guerra se l'aspettava certamente e tutti dicono che si è preparato bene, però è pure vero che i carri L3 sono proprio a rigoni. Sono carri da 3 tonnellate e un carro del genere è veramente una scatola di sardine. Ho cercato di fare capire a Michele che gli italiani non hanno nulla da temere dagli inglesi, ma lui dice che gli inglesi sono un osso duro. 12 giugno. Oggi le scatolette di sardine si sono comportate bene. Abbiamo ributtato indietro le truppe inglesi e le abbiamo inseguite quasi fino a Sidi Omar. Io non capisco perché non ci danno l'ordine di attaccare. Eravamo quasi a Sidi Omar, ma ci hanno dato l'ordine di tornare indietro. Oggi Michele ha visto che sul campo di battaglia gli italiani ci sanno fare. E l'ho visto proprio sorridere, ma anche lui non ha capito il senso del ritirarsi. 13 giugno. Oggi il capitano ci ha spiegato che gli inglesi a Sidi Omar hanno le auto blindo che nella sabbia si muovono molto più facilmente delle nostre scatole di sardine e che non le hanno fatte uscire per farci avvicinare e per darci dopo il colpo micidiale. Il comando lo ha capito e non è caduto nella trappola. 14 giugno, giornata di totale attesa. Il morale è alto. Resto a lungo a parlare con Michele. Mi piace questo ragazzo. È forte, però è anche gentile. Lui è abruzzese e così sono gli abruzzesi. Mi ha detto che anche lui si è arruolato volontario, ma io l'ho fatto perché nel Duce ci credo e credo nei destini della patria, ma lui in queste cose mi pare un po' più freddo, forse, anche se avanti ieri era proprio contentissimo della vittoria. 15 giugno. Un'altra giornata interminabile, però ho parlato molto con Michele. Comincio a pensare che abbiamo veramente molto in comune, anche se adesso dobbiamo pensare alla guerra. 16 giugno, domenica. Finalmente il contrattacco verso Sidi Omar e abbiamo vinto. Ho provato dei brutti momenti. Le autoblindo sono veramente micidiali e adattissime alla guerra nel deserto, ma non abbiamo mollato e alla fine gli inglesi si sono ritirati. Quando abbiamo fatto dietro fronte per tornare alla base, ho visto tanti dei nostri arrigoni in fiamme e ho avuto il terrore che Michele ci avesse lasciato la pelle. Il solo pensiero mi ha fatto stare male. Ma poi ci siamo ritrovati. Effettivamente, per mettere fuori combattimento un nostro L3, basta un fucilone anticarro a spalla. La sera ci siamo divertiti io e Michele e abbiamo scherzato tanto. Gli ho detto che avevo avuto paura che lui fosse morto e mi ha detto che la stessa paura aveva avuta anche lui e che poi, nelle scatole di sardine sotto il sole, si creperebbe lo stesso anche se gli inglesi non ti sparassero addosso. Come siamo ridotti adesso, prima di riprendere i combattimenti dobbiamo aspettare dei rimpiazzi. Il capitano mi ha detto che abbiamo perso quasi la metà degli L3 e purtroppo anche gli uomini che ci stavano dentro. 17 giugno, vuoto totale. Passo la giornata con Michele a cercare di rimettere in funzione qualche scatoletta di sardine non troppo ammaccata. Sto bene con Michele, si ride, si scherza. Se la guerra è questa, non è poi così terribile, anche se quando penso agli uomini che sono morti oggi mi sento completamente sottosopra. 18 giugno, più parlo con Michele, più mi convinco di una cosa. Potrei anche sbagliare, però la sensazione è quella. 19 giugno. Di ricognizione insieme con Michele andiamo avanti e indietro per il confine, ma di inglesi nemmeno l'ombra. A un certo punto ci troviamo vicino a un carro L3 bruciato. Ci avviciniamo. Quello che abbiamo visto credo che non lo dimenticheremo per tutta la vita. Gli uomini non sono morti sul colpo, ma sono morti bruciati, perché il colpo ha deformato la lamiera e i portelli non si sono aperti. Morire così deve essere terribile. La sera non abbiamo nemmeno mangiato e siamo rimasti un po' fuori, ma senza stenderci per terra perché tra scorpioni e serpenti, se ti addormenti, rischi di finire avvelenato. 20 giugno. Servizio di cucina con Michele e con gli altri. Giornata noiosissima. Non potevo parlare seriamente con Michele perché c'erano gli altri. Mi sa che quello che avevo pensato è proprio vero. 21 giugno. Caldo soffocante. Ho chiesto a Michele perché si è arruolato volontario e mi ha detto che anche se c'è la guerra, forse sta meglio qua che a casa. Gli ho chiesto perché, ma è stato evasivo. 22 giugno. Il capitano dice che i rimpiazzi tardano ad arrivare perché oltre il fronte egiziano c'è quello franco-tunisino e Balbo deve provvedere a entrambi. Con Michele ormai ci capiamo al volo. In pratica ci siamo capiti. Direi che oggi mi sono passati anche gli ultimi dubbi. 23 giugno. Nessuna traccia degli inglesi. Stiamo qui a fare nulla. Abbiamo recuperato qualche altro carro poco danneggiato. Anche il capitano non sa che dire. Aspetta ordini che non arrivano. Con Michele finalmente abbiamo parlato chiaro. E adesso? Anche perché siamo pure in guerra e proprio non vorrei che finisse male. La notte scorsa ho avuto gli incubi pensando agli uomini che sono morti bruciati. Ne ho parlato con Michele e mi ha abbracciato per cercare di farmi stare tranquillo. 24 giugno. Bellissima giornata con Michele. Distaccati ad aspettare ordini vicino a Bardia. Tra noi e gli inglesi meno di 10 chilometri, ma degli inglesi nemmeno l'ombra. Facciamo il bagno in mare, lasciando i vestiti sulla spiaggia. Poi succedono alcune cose. Dopo un'ora siamo di nuovo al campo, ma non ci sono ordini. Torniamo verso il deserto, al nostro campo. È stata proprio una bellissima giornata e sono stato proprio bene. 25 giugno. Con Michele tutto bene, in pratica ci siamo parlati pochissimo perché sono arrivati 6 uomini di rinforzo. Praticamente niente, e io li ho dovuti istruire su come si usano gli L3. Con Michele ci siamo visti solo la sera perché lui è andato in ispezione nelle retrovie e quindi io ero molto occupato a fare altro. 26 giugno. Come vorrei che finisse la guerra. Prima la desideravo tanto, ma mi sembra che sia durata anche troppo. Vorrei essere congedato domani, così potrei tornare in Italia con Michele e potrei anche andarmene in Abruzzo. 27 giugno. Con Michele abbiamo deciso che è meglio avere pazienza. Il capitano mi ha chiamato e mi ha detto di non dimenticare mai che siamo soldati e mi sa che ha proprio ragione. 28 giugno. Sento alla radio una notizia incredibile. È morto Italo Balbo. È rimasto ucciso mentre era di ritorno da una ricognizione in territorio egiziano. Il suo aereo è precipitato in fiamme durante un'azione di bombardamento nemica su Tobruk, cioè non al confine egiziano, ma ben dentro il territorio libico. Così ha detto la radio. Ma che fine assurda, lui che è un asso dell'aviazione. Il capitano dice che l'andamento della guerra dipenderà tutto da chi sostituirà Balbo. Il capitano ha capito quella cosa, ma non ha detto nulla. Oggi ha parlato solo di Balbo. Giornata splendida con Michele. 30 giugno. Sono arrivati gli uomini che erano a Tobruk quando è caduto il Savoia Marchetti di Balbo. Hanno raccontato che alle 5:30 del pomeriggio hanno sentito la cannonata, che lì è il segnale di attacco aereo. 9 bimotori inglesi carichi di bombe arrivano dal mare a gruppi di 3, dritti su Tobruk 2, perché lì c'erano i nostri aerei da caccia. Ma i nostri decentrano tutti gli aerei in posti lontani uno dall'altro, proprio per evitare che con una sola incursione si possano subire grossi danni. Dal porto si vedeva un'enorme colonna di fumo nero. Solo quando è arrivato il terzo gruppo si è sentito qualche cannone della contraerea italiana. L'azione inglese è stata fulminea e ci ha colto di sorpresa. I bimotori inglesi si sono allontanati contro sole per evitare la contraerea. I nostri si aspettavano un'altra ondata di bombardamento, poi hanno sentito le ambulanze correre verso Tobruk 2. Poi di nuovo hanno sentito un rombo di motori d'aereo nella stessa direzione, contro sole, verso dove si erano allontanati i bombardieri. Si aspettavano un'altra ondata di bombardamento. Gli apparecchi erano 2 e contro sole non si distinguevano bene. A un certo punto uno ha gridato che erano italiani, erano Savoia Marchetti 79, ma non aveva fatto a tempo a dirlo che la contraerea si era scatenata. Dal porto, dall'incrociatore San Giorgio e dai sommergibili in rada è stato un inferno. Pensavano tutti che fossero aerei inglesi, altrimenti la contraerea non avrebbe sparato, ma qualcuno aveva visto benissimo che erano 79. Uno dei 2 aerei si è allontanato verso nord, l'altro è stato colpito ed è precipitato. Poi l'altro aereo è tornato rendendosi visibile ed era proprio un 79. Quello abbattuto era quello di Balbo. Balbo buttato giù dalla contraerea italiana che aveva appena subito un bombardamento inglese senza sparare nemmeno un colpo. Ma il colonnello è stato a sentire il racconto di quelli che stavano a Tobruk e ha fatto una smorfia, come a dire che i conti non gli tornavano. 5 di agosto. Oggi c'è stata battaglia a Sidi Aziz. Abbiamo ributtato indietro gli inglesi, ma non capisco perché non ci danno l'ordine di avanzare. Più aspettiamo, più gli inglesi si organizzano. Stavo con Michele su un R3, ma non è stato uno scontro difficile. Penso che gli inglesi si aspettassero un attacco in profondità e invece abbiamo avuto l'ordine di ripiegare. Di Graziani non so quasi nulla e non so se si intenda di guerra nel deserto, perché questa è una guerra molto particolare. Qui i problemi sono soprattutto il caldo, la mancanza dell'acqua e del carburante e la sabbia che entra dappertutto, al punto che i camion non funzionano più e poi non ci sono strade e i mezzi a ruote si insabbiano. Quando tira il Ghibli non si vede nulla e la sabbia entra nei polmoni. Non vedo l'ora che finisce la guerra. 21 di agosto. Siamo stati aggregati a una brigata nuova arrivata dall'Italia con gli M1139. Sono dei carri di 11 tonnellate. Non sono carri pesanti, ma a me sembrano potentissimi, niente di simile agli L3. Il colonnello dei carristi ci ha detto che presto arriveranno anche gli M1340, che sono molto più maneggevoli e moderni. Comunque, anche l'M11 non è male, ha un cannoncino da 37 in casamatta e due mitragliatrici Bled abbinate in torretta. Peccato che il cannone in casamatta non è molto brandeggiabile. Se fosse in una torretta mobile avrebbe l'orizzonte a 360 gradi. Comunque la corazza è di 15 mm e quindi per sfondarla ci vuole un cannone grosso. Con Michele va tutto bene. Poi adesso tutti pensano che stia per arrivare l'ordine di attacco e hanno ben altro da pensare. 26 d'agosto. Il colonnello dice che nelle retrovie c'è molto movimento. Presto entreremo in Egitto e ci batteremo con gli inglesi. Ci sarebbero tre divisioni italiane e due libiche pronte a passare il confine. 27 agosto. Noi siamo a ridosso del confine e qui sembra tutto tranquillo, ma gli ufficiali sono in fermento, urlano che deve essere tutto pronto. 10 settembre. Il colonnello ci ha detto che il grosso dell'armata è in arrivo. Ci mandano nelle retrovie a dare informazioni sulla viabilità. Ho visto tutta la potenza dell'esercito italiano, una massa immensa di uomini e di mezzi. 11 settembre. C'è molta confusione. Abbiamo cercato di fare capire che i camion fuori delle strade non potevano camminare perché si sarebbero certamente insabbiati. Le strade, poi, non erano adatte per una fila lunghissima di mezzi pesanti, ma nessuno ci dava retta. Gli ufficiali davano ordini impossibili da eseguire nel deserto. Mancava ogni forma di coordinamento. Abbiamo provato a fare capire che oltre confine la situazione sarebbe stata molto peggiore. Per tutta risposta ci hanno rimandato al nostro campo. 12 settembre. Il colonnello ci ha avvisato che l'armata si stava riorganizzando prima di passare il confine. Il colonnello diceva che gli stati maggiori prima non si rendevano conto delle difficoltà sul campo, ma adesso avevano dovuto fare i conti con il deserto e quindi l'attacco non sarebbe arrivato prima di una decina di giorni. 13 settembre. Il colonnello è nero. Cinque divisioni hanno avuto l'ordine di entrare immediatamente in Egitto, ma a suo dire non erano proprio in condizioni logistiche adeguate per una cosa simile. In serata anche noi riceviamo l'ordine di entrare in Egitto. Partiamo immediatamente. Noi carristi pensavamo di rimanere uniti per fare fronte unito contro gli inglesi, ma dobbiamo separarci in piccoli gruppi a protezione delle truppe non corazzate. 15 settembre. Conquistiamo Al-Faya. 16 settembre. Conquistiamo Sidi al-Barrani. 18 settembre. Tutta la decima armata si ferma intorno a Sidi al-Barrani. Avanzare verso Marsa Matruh senza approvvigionamento idrico è impossibile. Quanto segue è il commento aggiunto da Massimo che mi ha inviato il diario di Antonio. Il diario di Antonio termina qui. Il 9 dicembre del 1940 il generale O'Connor, attaccando Sidi al-Barrani, dà inizio all'operazione Compass, destinata a cacciare la decima armata italiana dall'Egitto. Alla fine dell'operazione Compass, la decima armata italiana è distrutta. 130.000 soldati italiani sono catturati dagli inglesi. Le forze britanniche tengono stabilmente la Cirenaica e sono pronte a muovere contro la Tripolitania. Mio nonno, che era anche lui del 1920, come Antonio, l'autore del diario, e come Michele, ricevette queste pagine da Antonio, di cui era diventato amico. Lui aveva capito che rapporto c'era tra Antonio e Michele. Ma con quei ragazzi si trovava a suo agio e in pochi giorni erano diventati amici. Ma la storia non finisce qui. Sia Antonio che Michele furono catturati dagli inglesi e furono mandati nello stesso campo di prigionia in Scozia. Mio nonno invece finì in un campo diverso perché fu catturato più tardi. Antonio e Michele, alla fine della guerra, rimasero in Scozia e aprirono insieme un piccolo ristorante. Mio nonno andò a trovarli e si trattenne da loro una settimana. Antonio è morto nel 2004 e Michele nel 2006. Quando ero ragazzo, mio nonno mi raccontò per la prima volta la storia di Antonio e Michele e mi disse che dovevo avere il massimo rispetto per queste persone. Sul momento non capii di che cosa volesse parlare, poi crescendo credo di avere capito. È proprio per rispetto di queste persone che ti mando questo scritto perché tu possa farlo conoscere a chi è in grado di capire. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.